Il calice e la spada di Rianne Eisler. Ebook scaricato gratuitamente da internet, realizzato con il contributo del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Udine. Traduzione di Vincenzo Mingiardi. 1. Viaggio in un mondo perduto, gli inizi della civiltà. Un'immagine femminile, conservata per più di 20.000 anni in una caverna a tempio, ci descrive la mente dei nostri primi antenati occidentali. È minuscola, intagliata nella pietra, una delle cosiddette statuette di Venere, che sono state rinvenute un po' ovunque nell'Europa preistorica. Queste statuette, dissotterrate negli scavi in un'ampia area geografica, dai Balcani, nell'Europa orientale, al lago Baikal, in Siberia, e in tutto l'Occidente, da Willendorf vicino a Vienna alle Grotte du Pape in Francia, sono state definite da alcuni studiosi come espressioni dell'erotismo maschile, come dire un antico corrispettivo dell'attuale rivista Playboy. Per altri si tratta solamente di oggetti che venivano usati nei riti di fertilità primitivi, presumibilmente osceni. Ma qual è il significato reale di queste antiche sculture? Possono davvero essere liquidate come prodotti peccaminosi dell'immaginazione maschile? Si può inoltre ritenere appropriato il termine Venere per descrivere queste figure dai larghi lombi, a volte incinte, fortemente stilizzate e spesso senza volto? O piuttosto queste sculture preistoriche ci rivelano qualcosa di importante su noi stessi, sul modo in cui sia gli uomini che le donne un tempo adoravano le potenze dispensatrici di vita dell'universo? Il Paleolitico. Insieme ai dipinti murali, alle caverne tempio e ai luoghi di inumazione, le statuette delle popolazioni del Paleolitico sono importanti documenti psichici. Testimoniano il riverente timore dei nostri progenitori di fronte al mistero della vita e della morte. Indicano che, fin dall'inizio della sua storia, la volontà di vita dell'essere umano si espresse e trovò conforto in un gran numero di rituali e di miti che sembra fossero associati a una credenza ancora oggi assai diffusa. La morte può riportare alla vita attraverso una rinascita. In grandi caverne e tempio come le Trois Frères, Niort, Fondegomo o Lascaux, scrive lo storico delle religioni James, le cerimonie devono avere comportato un tentativo organizzato da parte delle comunità di controllare le forze e i processi della natura con mezzi sovrannaturali per il bene comune. Si direbbe che la tradizione sacra sia in relazione all'approvvigionamento di cibo che al mistero della nascita e della riproduzione o della morte, sia nata e sia servita come risposta alla volontà di vivere qui e nell'aldilà. Questa tradizione sacra si espresse nella straordinaria arte del Paleolitico e parte integrante di questa tradizione sacra fu il nesso tra la donna e i poteri che governano la vita e la morte. Nelle tombe paleolitiche è evidente l'associazione tra il femminile e le forze che donano la vita. Per esempio, nel rifugio di roccia noto come Cro-Magnon a Les-Eyzies in Francia, dove nel 1868 vennero rinvenuti i primi resti scheletrici dei nostri antenati del Paleolitico superiore, attorno e sui cadaveri erano accuratamente disposte delle conchiglie. Queste conchiglie, che hanno una forma che James con delicatezza descrive come il portale attraverso cui un bambino entra nel mondo, sembra fossero associate con una forma primitiva di adorazione di una divinità femminile. Come scrive lo studioso, la conchiglia era un elemento apportatore di vita, proprio come l'ocra rossa, che anche in tradizioni successive rappresenta il sangue apportatore di vita o mestruale della donna. Si direbbe che il punto centrale fosse l'associazione della donna al potere di donare e sostenere la vita. Ma nello stesso tempo anche la morte, o più specificamente la resurrezione, sembra fosse un tema religioso importante. Tanto la collocazione rituale delle conchiglie a forma di vagina intorno e sopra al morto, quanto la pratica di ricoprirle con pigmento rosso ocra, che simboleggia il potere vivificante del sangue, sembra facessero parte di riti funebri intesi a fare ritornare il defunto tramite una rinascita. Più specificamente, come osserva James, queste pratiche indicano che i riti funebri erano un rituale apportatore di vita, strettamente collegato alle statuette femminili e ad altri simboli del culto della dea. Oltre a questa testimonianza archeologica di riti funebri del Paleolitico, esistono prove di riti che pare servissero a propiziare la fecondità delle piante e degli animali selvatici che costituivano il sostentamento dei nostri antenati. Per esempio, nella galleria dell'inaccessibile caverna di Tuc-d'Aubert, nella Riège, nel soffice strato d'argilla sotto i dipinti murali di due bisonti, una femmina seguita da un maschio, si trovano delle impronte di piedi umani che gli studiosi ritengano siano state impresse durante delle danze rituali. Analogamente, nel rifugio di roccia di Cogul in Catalogna è raffigurata una scena di donne, forse delle sacerdotesse, che danzano intorno a una piccola figura maschile svestita in quella che sembra una cerimonia religiosa. Caverne, tempio, statuette, sepolture e riti sembra fossero associati alla concezione che la vita umana, quell'animale e quella vegetale, abbiano origine da una stessa sorgente, la grande dea madre onnidispensatrice, che troviamo anche in periodi successivi della civiltà occidentale. Indicano inoltre che i nostri antichi progenitori riconoscevano che noi e il nostro ambiente naturale siamo parti integranti e collegate del grande mistero della vita e della morte, e che per questo motivo tutta la natura deve essere trattata con rispetto. Questa coscienza, in seguito evidenziata nelle statuette della dea, circondata da simboli naturali come animali, acqua e alberi, oppure ella stessa in forma parzialmente animale, era indubbiamente alla base del nostro perduto retaggio psichico. Centrale è anche l'evidente timore reverenziale, la meraviglia per il grande miracolo della nostra condizione umana, il miracolo della nascita che si incarna nel corpo della donna. A giudicare da queste prime testimonianze psichiche, si trattava di un tema fondamentale nei sistemi di fede preistorici dell'Occidente. Ora, quanto abbiamo fin qui elaborato non è certo il punto di vista della maggioranza degli studiosi e non è ciò che viene insegnato nei corsi di studio sulle origini della civiltà, in cui, come nella maggior parte degli scritti divulgativi sull'argomento, prevalgono ancora i pregiudizi dei primi studiosi che giudicavano l'arte del Paleolitico secondo il solito stereotipo dell'uomo primitivo, cacciatori bellicosi, assetati di sangue, di fatto molto diversi dalle società di caccia e raccolta più primitive scoperte in epoca moderna. Basandosi su una siffatta interpretazione del materiale disponibile, molto frammentario, del periodo paleolitico, si costruirono le teorie sull'organizzazione sociale protostorica e preistorica fondate sul maschio. E persino quando si fecero nuove scoperte, queste furono interpretate dagli studiosi in modo da poterle adattare ai vecchi modelli teorici. Uno dei presupposti di questi studiosi era, e generalmente tuttora è, che il creatore dell'arte paleolitica fosse soltanto l'uomo preistorico. Anche questa supposizione non si basava su prove concrete, anzi era frutto dei pregiudizi degli studiosi che di fatto non reggono di fronte a scoperte come quella, per esempio, che ancora oggi tra i Veda dello Sri Lanka, Ceylon, sono le donne e non gli uomini a eseguire le pitture rupestri. Alla base di questi pregiudizi c'era l'idea, come dice John Pfeiffer in The Emergence of Man, che la caccia dominava l'attenzione e l'immaginazione dell'uomo preistorico e che, se egli in qualche modo assomigliava all'uomo moderno, usava in numerose occasioni il rituale come mezzo per rinvigorire e aumentare il suo potere. Attenendosi a questo pregiudizio, i dipinti murali del Paleolitico venivano associati alla caccia, persino quando ritraevano donne danzanti. Allo stesso modo, come abbiamo già osservato, le prove di una forma di culto antropomorfico incentrato sulla donna, come i ritrovamenti di raffigurazioni femminili incinte e con fianchi larghi, venivano o ignorate o classificate esclusivamente come oggetti sessuali maschili, veneri erotiche obese o barbare immagini di bellezza. Pur con alcune eccezioni, il modello evolutivo di uomo guerriero o cacciatore ha fuorviato la maggior parte delle interpretazioni dell'arte paleolitica. Solo nei successivi scavi del XX secolo, nell'Europa orientale e occidentale e in Siberia, è gradualmente cominciata a cambiare l'interpretazione dei ritrovamenti nuovi e antichi. C'erano delle ricercatrici donne che notarono le rappresentazioni genitali femminili e furono propense a un'interpretazione religiosa più complessa, abbandonando le interpretazioni dell'arte paleolitica come magia della caccia. E siccome molti studiosi erano scienziati laici e non monaci come l'abate Boyle, le cui interpretazioni morali, tra virgolette, delle pratiche religiose hanno fuorviato gran parte degli studi sul paleolitico del XIX secolo e degli inizi del XX, anche alcuni uomini che riesaminavano i dipinti delle caverne, le statuette e altri ritrovamenti del paleolitico cominciarono a mettere in dubbio i dogmi accettati dal mondo accademico. Un esempio interessante di questo atteggiamento problematico riguarda le immagini di bastoncini e le linee dipinte sulle pareti delle caverne paleolitiche e incise su oggetti d'osso o di pietra. Per molti studiosi era evidente che raffigurassero delle armi, frecce, uncini, lance, arpioni, ma come scrive Alexander Marshak in The Roots of Civilization, una delle prime opere a sfidare apertamente l'interpretazione consueta, queste incisioni e disegni di linee potrebbero altrettanto facilmente rappresentare piante, alberi, rami, canne e foglie. Inoltre, questa nuova interpretazione potrebbe spiegare quella che altrimenti sarebbe una curiosa assenza di raffigurazioni della vegetazione da parte di popoli che, come gli attuali cacciatori e raccoglitori, per il loro sostentamento devono avere contato molto su di essa. Anche Peter Yuko e André Rosenfeld in Paleolithic Cave Art si sono meravigliati della peculiare assenza di vegetazione nell'arte paleolitica. Hanno inoltre notato un'altra curiosa incongruenza. Tutto stava a dimostrare che un particolare tipo di arpione, detto biseriale, non era comparso fino al tardo paleolitico o magdaleniano, anche se gli studiosi continuavano a identificarlo con i bastoncini, anteriori di migliaia d'anni, sulle pareti delle caverne preistoriche. Inoltre, perché gli artisti del paleolitico avrebbero dovuto rappresentare tanti insuccessi di caccia? Infatti, se i bastoncini e le linee rappresentavano veramente delle armi, le immagini che le ritraevano sarebbero state di bersagli perennemente mancati. Per sondare questi misteri, Marshak, che non era un archeologo e quindi non era condizionato dalle convenzioni archeologiche precedenti, esaminò minuziosamente le incisioni su di un oggetto d'osso, che erano state descritte come immagini di arpioni. Al microscopio scoprì che non solo gli uncini di questi presunti arpioni non erano disposti nel modo appropriato, ma che anche le punte delle lunghe aste si trovavano sull'estremità sbagliata. Ma cosa rappresentavano queste incisioni se non erano armi sbagliate? Come venne dimostrato, le linee corrispondevano esattamente alla giusta angolazione di rami che crescevano dall'estremità di un lungo gambo. In altre parole, questa e altre incisioni che venivano descritte convenzionalmente come segni uncinati o oggetti maschili, probabilmente altro non erano che rappresentazioni stilizzate di alberi, rami, piante. Ancora una volta, a un esame più approfondito, l'idea tradizionale di arte paleolitica come primitiva magia della caccia può essere considerata più come una proiezione di stereotipi che come un'interpretazione logica di un'osservazione. E lo stesso vale per la spiegazione delle statuette femminili paleolitiche, come osceni oggetti sessuali maschili o espressioni di un culto primitivo della fertilità. A causa della scarsità dei reperti e del lungo periodo di tempo che ci separa dalle nostre antenate e dai nostri antenati, probabilmente non saremo mai completamente certe dell'esatto significato che costoro attribuivano ai loro dipinti, alle loro statuette, ai loro simboli. Ma dopo l'impatto causato dalla pubblicazione di splendide tavole a colori dei dipinti delle caverne paleolitiche, il potere evocativo di quest'arte è divenuto leggendario. Alcune raffigurazioni di animali sono belle quanto le opere dei migliori artisti moderni e offrono una spontaneità di visione che pochi di questi ultimi riescono a ottenere. Perciò, Possiamo essere certe di una cosa: l'arte del Paleolitico è molto più che rozzi graffiti di primitivi arretrati. Anzi, essa rivela tradizioni psichiche che dobbiamo capire se vogliamo comprendere non solo ciò che erano e sono gli esseri umani, ma anche ciò che potrebbero diventare. Come ha scritto uno dei più importanti e recenti studi sull'arte del Paleolitico, André Leroy-Gourin, direttore del Centro Studi Preistorici e Protostorici della Sorbona, è riduttivo e ridicolo liquidare come un culto primitivo della fertilità il complesso di credenze del periodo. Leroy-Gourin osserva che possiamo, senza compiere forzature sul materiale, considerare l'intera arte figurativa del Paleolitico come un'espressione di concetti sulla organizzazione naturale e soprannaturale del mondo vivente. E aggiunge che i popoli del Paleolitico senza dubbio conoscevano la divisione del mondo animale e umano in metà contrapposte e ritenevano che l'unione di queste due metà regolasse l'organizzazione degli esseri viventi. La conclusione di Leroy-Gourin, che l'arte del Paleolitico riflette l'importanza che i nostri progenitori attribuivano alla constatazione dell'esistenza di due sessi, si basa sull'analisi di migliaia di dipinti e di oggetti provenienti da scavi in una sessantina di caverne, anche se si esprime nei termini di stereotipi sadomasochistici maschili e femminili e, per altri versi, si attiene alle precedenti convenzioni archeologiche, Leroy-Gourin dimostra che l'arte paleolitica espresse alcune forme di religione primitiva in cui le rappresentazioni e i simboli femminili svolgevano un ruolo centrale. A questo proposito fa due osservazioni interessanti. Le figure femminili e i simboli che egli interpretava come femminili erano per lo più collocati in una posizione centrale delle camere portate alla luce negli scavi. I simboli maschili, invece, occupavano di solito una posizione periferica oppure erano disposti intorno alle immagini e ai simboli femminili. I ritrovamenti di Leroy-Gourin corrispondono all'idea da me esposta in precedenza. Le conchiglie a forma di vagina, l'ocra rossa nelle sepolture, le cosiddette statuette di Venere e quelle per metà donna e per metà animale che i precedenti scrittori liquidavano come mostruosità si riferivano tutte a un'antica forma di culto in cui i poteri dispensatori di vita della donna svolgevano un ruolo fondamentale. Erano espressione dei tentativi dei nostri progenitori di capire il mondo, di rispondere agli interrogativi universali dell'uomo: da dove veniamo quando nasciamo e dove andiamo quando moriamo. E confermano quanto avremmo potuto logicamente supporre, che contemporaneamente al primo manifestarsi della coscienza del rapporto tra l'individuo e gli altri esseri umani, gli animali e il resto della natura, deve essere sorta anche la consapevolezza del solenne mistero e dell'importanza pratica del fatto che la vita abbia origine da un corpo femminile. Sembra del tutto plausibile che l'evidente dimorfismo, cioè la differenza di forma tra le due metà dell'umanità, abbia avuto un profondo effetto sui sistemi di fede del Paleolitico. Sembra altrettanto logico che la constatazione che la vita umana e quella animale sono generate dal corpo femminile e che il corpo della donna, come le stagioni e la luna, segue dei cicli, abbia portato i nostri progenitori e le nostre progenitrici a considerare femminili anziché maschili i poteri del mondo che danno e mantengono la vita. Insomma, invece che essere materiali casuali e sconnessi, i resti paleolitici di statuette femminili, di ocra rossa nelle sepolture e di conchiglie a forma di vagina sembrano essere le prime manifestazioni di quella che in seguito sarebbe diventata una religione complessa, incentrata sul culto della dea madre, originatrice e rigeneratrice di tutte le forme di vita. Questo culto della dea, come notano James e altri studiosi, è sopravvissuto fino in epoca storica, nella figura composita della Magna Mater del mondo medio orientale e greco-romano. Questa continuità religiosa è facilmente riconoscibile in divinità ben conosciute come Isis, Nut e Maat in Egitto, Ishtar, Astarte e Lilith nella Mezzaluna Fertile, Demetra, Core ed Era in Grecia e Atargatis, Cerere e Cibele a Roma. Persino in epoca successiva, nella nostra tradizione giudaico-cristiana, possiamo riconoscerla nella Regina del Cielo, i cui boschi vengono bruciati nella Bibbia, nella Shekinah della tradizione cabalistica ebraica e nella Vergine Maria dei cattolici, la Santa Madre di Dio. Viene nuovamente da chiedersi perché, se questi collegamenti sono tanto ovvi e si siano stati per tanto tempo minimizzati o del tutto ignorati dalla letteratura archeologica tradizionale, un motivo che abbiamo già fatto notare è che essi non si adattano al modello protostorico e preistorico di una forma di organizzazione sociale incentrata sul maschio e da esso dominata. Ma un'altra ragione è che solo dopo la Seconda Guerra Mondiale furono rinvenuti alcuni dei reperti più importanti di questa tradizione religiosa, che proseguì per migliaia d'anni nell'affascinante periodo che seguì al Paleolitico. Si tratta del lungo periodo della nostra evoluzione culturale, che si colloca tra i primi cruciali sviluppi della cultura umana nel Paleolitico e le successive civiltà dell'età del bronzo, l'epoca in cui le nostre antenate e i nostri antenati si organizzarono nelle prime comunità agricole del Neolitico. Il Neolitico. Pressappoco nello stesso periodo in cui Leroy Guren scriveva dei suoi ritrovamenti, la nostra conoscenza della preistoria progredì immensamente grazie all'entusiasmante scoperta e allo scavo di due nuovi siti del Neolitico, le città di Çatalhöyük e Hesiler. Si trovavano in quelle che in passato venivano chiamate pianure dell'Anatolia, nell'attuale Turchia. Secondo James Mellart, che diresse gli scavi per conto del British Institute of Archaeology di Ankara, il fatto più interessante era che gli scavi in questi due siti rivelavano una stabilità e una continuità dello sviluppo durato diverse migliaia d'anni, delle culture sempre più avanzate che adoravano la dea. La nuova brillante valutazione della religione del Paleolitico superiore, fatta da Leroy Guren, scrisse Mellart, ha chiarito molti equivoci. L'interpretazione dell'arte del Paleolitico superiore, che ne consegue, incentrata sul tema di un complesso simbolismo femminile sotto forma di animali e simboli, mostra forti somiglianze con le immagini religiose di Çatalhöyük. Inoltre, ci sono ovvie influenze del Paleolitico superiore. In numerose pratiche di culto, di cui le sepolture con ocra rossa, i pavimenti tinti di rosso, i cumuli di stalattiti, fossili e conchiglie, sono solo alcuni esempi. Mellart notava poi che fino a che si era ritenuto che l'arte fortemente evoluta e stilizzata del Paleolitico superiore non fosse altro che un'espressione di magia della caccia, un'opinione mutuata da società arretrate come quella degli aborigeni australiani, c'erano state poche speranze di stabilire un collegamento con i successivi culti della fertilità del vicino Oriente basati sulla figura della dea madre e di suo figlio. Anche se la presenza di una simile dea nel Paleolitico superiore difficilmente poteva essere negata, come invece avveniva. Ma ora, dichiarava Mellart, questa posizione, alla luce dei nuovi dati disponibili, era radicalmente cambiata. In altre parole, la cultura neolitica di Çatalhöyük e Hesiler ha fornito vaste informazioni su di un pezzo a lungo mancante del puzzle del nostro passato. L'anello mancante tra il Paleolitico e i periodi successivi più avanzati tecnologicamente, il Calcolitico, l'età del rame e del bronzo. Come scrive Mellart, Çatalhöyük e Hesiler hanno stabilito un collegamento tra queste due grandi scuole d'arte. Si può dimostrare una continuità religiosa da Çatalhöyük e Hesiler fino alle grandi dee madri di epoca arcaica e classica. Come nell'arte paleolitica, simboli e statuette femminili occupano una posizione di rilievo nell'arte di Çatalhöyük, dove si trovano ovunque statuette della dea e templi a lei dedicati. Inoltre, le statuette della dea sono tipiche dell'arte neolitica di altre aree del vicino e Medio Oriente. Per esempio nel sito neolitico medio orientale di Gerico, nell'attuale Israele, dove fin dal 7000 a.C. la popolazione viveva in case di mattoni intonacati, alcune con forni d'argilla, camini e persino incastri per gli stipiti della porta, sono state ritrovate statuette d'argilla della dea. A Tell Es-Sawan, un sito sulle sponde del Tigri, famoso per le prime coltivazioni irrigue e la stupefacente ceramica a decorazione geometrica nota come Samarra, è stata scoperta una serie di statuette, tra cui un deposito di sculture femminili dipinte estremamente raffinate. A Kayonu, un sito del Neolitico nella Siria orientale, dove si riscontra un antichissimo uso di rame locale sbalzato e per la prima volta vengono impiegati mattoni d'argilla, sono state rinvenute statuette d'argilla simili, alcune delle quali provengono dai livelli più antichi del sito. Queste minuscole statuette della dea hanno un equivalente più tardo a Yarmo e persino molto più a occidente ad Aseramik Sesklo, dove venivano fabbricate ancora prima della comparsa del vasellame in ceramica. Sebbene anche di questo non si parli spesso, i numerosi scavi neolitici in cui sono state rinvenute statuette e simboli della dea coprono una vasta area geografica che va ben oltre il vicino e Medio Oriente. In precedenza si era trovata una gran quantità di statuette femminili in terracotta più a Oriente, fino a Harappa e Mohenjo-Daro in India. Come scrisse Sir John Marshall, anche queste rappresentavano probabilmente una dea con attributi molto simili a quelli della grande dea madre, la Signora del Cielo. Statuette della dea sono state ritrovate in siti europei molto a occidente, come quelli delle cosiddette culture megalitiche che crearono gli enormi monumenti di pietra, realizzati con grande perizia di Stonehenge e Eybury in Inghilterra, e alcune di queste culture megalitiche si spingevano a sud fino all'isola di Malta, nel Mediterraneo, dove un gigantesco ossario con 7.000 luoghi di sepoltura appariva anche come un importante santuario per riti iniziatici e profetici, in cui la Dea Madre svolgeva un ruolo importante. A poco si sta delineando una nuova immagine delle origini e dello sviluppo della civiltà e della religione. L'economia agricola del Neolitico fu alla base di uno sviluppo della civiltà che sarebbe continuato per migliaia d'anni fino ai giorni nostri. E quasi ovunque i luoghi dove avvennero i grandi progressi sociali e materiali della tecnologia hanno una caratteristica in comune: il culto della dea. Che conseguenze hanno questi ritrovamenti sul nostro presente e sul nostro futuro? E perché dovremmo credere a questa nuova teoria sulla nostra evoluzione culturale, invece che alla vecchia e consacrata dottrina androcentrica esposta nei tanti libri splendidamente illustrati di archeologia da salotto o per bambini? Uno dei motivi è che i ritrovamenti di statuette femminili e di altre testimonianze che comprovano una religione di tipo ginecentrico, ovvero basata sulla donna e sulla dea, in epoca neolitica, sono così numerosi che anche soltanto elencarli richiederebbe diversi volumi. Ma la ragione principale è che questa nuova concezione della preistoria è il risultato di un profondo mutamento dei metodi di ricerca archeologici e dell'importanza che essi hanno assunto. Lo scavo dei tesori sepolti dell'antichità è antico come i saccheggiatori di tombe che depredavano i sepolcri dei faraoni egizi. Ma l'archeologia, come scienza, risale alla fine dell'Ottocento. Anche allora i primi scavi archeologici, pur motivati dalla curiosità intellettuale per il nostro passato, avevano un fine principale non dissimile al saccheggio delle tombe: l'acquisizione di stupefacenti antichità per conto dei musei d'Inghilterra, Francia e delle altre nazioni colonialiste. L'idea dello scavo archeologico come mezzo per ricavare il massimo di informazioni su di un sito, a prescindere dal suo contenuto di tesori archeologici, prese piede solo più tardi. In pratica, solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale l'archeologia iniziò a essere veramente riconosciuta come un'indagine sulla vita, il pensiero, la tecnologia e l'organizzazione sociale dei nostri antenati. Oggi gli scavi archeologici sono sempre più condotti da squadre di scienziati, zoologi, botaniche, climatologi, antropologhe, paleontologi e naturalmente archeologhe, non più da esploratori o studiosi solitari come in passato. Questo approccio interdisciplinare, che caratterizza gli scavi più recenti, come quello di Mellart in Turchia a Çatalhöyük, ci sta offrendo una conoscenza molto più accurata della nostra preistoria. Ma forse ciò che più importa che una quantità di importanti progressi tecnologici, come il metodo di datazione con il radiocarbonio o C14 e i metodi di datazione dendrocronologica tramite l'analisi della sezione delle piante, hanno enormemente aumentato la capacità di archeologhe e archeologi di comprendere il passato. In precedenza i dati si basavano molto sulla congettura, sul confronto di oggetti giudicati meno altrettanto o più avanzati rispetto ad altri. Ma quando la datazione venne affidata a tecniche ripetibili e verificabili, diventò impossibile cavarsela, affermando che se un artefatto è più sviluppato artisticamente o tecnologicamente, esso deve necessariamente risalire a un periodo più recente e perciò presumibilmente più civilizzato. Di conseguenza c'è stato un drammatico riesame della successione cronologica, che ha modificato radicalmente le opinioni esistenti sulla preistoria. Ora sappiamo che l'agricoltura, non solo l'addomesticamento degli animali, ma anche delle piante selvatiche, risale a un'epoca molto più antica di quanto si credeva in precedenza. Infatti, i primi segni di quella che archeologhe e archeologi definiscono la rivoluzione agricola o del Neolitico iniziano a manifestarsi tra il 9000 e l'8000 avanti Cristo, vale a dire più di 10.000 anni fa. La rivoluzione agricola è stata il più importante progresso individuale nella tecnologia materiale della nostra specie. Di conseguenza, gli inizi della cosiddetta civiltà occidentale sono più antichi di quanto si ritenesse in precedenza. Con una disponibilità regolare, a volte persino in eccesso, di cibo, ci fu un aumento della popolazione e sorsero le prime città di dimensioni considerevoli. In esse vivevano e lavoravano centinaia, a volte migliaia di persone, dissodando e in molti casi anche irrigando il terreno. Nel Neolitico si accelerarono il commercio e la specializzazione tecnologica e, poiché l'agricoltura liberò l'energia e l'immaginazione dell'uomo e della donna, fiorirono attività artigianali come la manifattura di ceramiche e di canestri, di tessuti e di pellami, di gioielli e di legno intagliato, insieme alle arti come pittura, modellazione dell'argilla e scultura su pietra. Contemporaneamente proseguiva l'evoluzione della coscienza spirituale dell'umanità. L'iniziale religione antropomorfica, incentrata sul culto della dea, si era ormai evoluta in un complesso sistema di simboli, rituali, comandamenti e proibizioni divine che trovavano espressione nella ricca arte del periodo neolitico. Alcune delle più vivaci testimonianze di questa tradizione artistica ginecentrica ci giungono dagli scavi in Turchia a Çatalhöyük. Qui, nel più vasto sito neolitico conosciuto del vicino Oriente, si trovano 32 acri di resti archeologici. È stato scandagliato appena un ventesimo della collina, ma solo con questo scavo è venuto alla luce un periodo che abbraccia all'incirca 800 anni, pressappoco dal 6500 al 5700 avanti Cristo. Si è scoperto un centro artistico notevolmente avanzato, con dipinti murali, rilievi intonacati, sculture in pietra e grandi quantità di statuette d'argilla della dea, tutte dedicate al culto di una divinità femminile. Ricapitolando le sue prime tre campagne di lavoro, Mellert scrisse che i numerosi santuari rivelano l'esistenza di una religione avanzata con un suo simbolismo e una sua mitologia. Gli edifici, la nascita dell'architettura e della progettazione consapevole, l'economia, tecniche avanzate di agricoltura e allevamento, le sue numerose importazioni, un fiorente commercio di materie prime.